Radio Popolare presenta La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, a cura di Felice Accame e Carla Oliva. Buongiorno, il programma prevede di parlare di come si aspettano i barbari, di scoperte reiterate, scoperte riscoperte e di quali bandiere si espongono in occasione degli anniversari, nonché di armenti colorati.